Ciao, io sono Laura Boltolina e questa newsletter è Il punto di vista della candela. Mi sono sempre piaciute le candele. Mi piace la luce del loro fuoco che è gentile, discreto e presente. Penso con tenerezza alla me stessa ragazzina che addirittura le candele le faceva. Mi cercavo la cera quella buona, gli stoppini naturali. Scioglievo, modellavo, decoravo come una matta. La mia piccola produzione artigianale, per quanto effimera, era per fortuna molto apprezzata perché mi sono pagata più di qualche rata di tasse universitarie vendendole a un negozio del centro città. In mezzo a tutto quel trafficare tra cere e bagnomaria e traslucenze e colori, ho capito una cosa. Il mestiere della candela non è affatto quello di illuminare. Alla candela non interessa la luce. Una candela brucia. Questo è il suo punto di vista, il suo autentico modo di essere. Ma quanto è importante per noi quella luce? Soprattutto in un luogo scuro, al buio, una candela accesa è un cambio di paradigma. Una finestra aperta all'improvviso su una parete fino a un attimo prima impenetrabile. Una deviazione del percorso che mostra un paesaggio differente. Il nostro punto di vista, il nostro autentico modo di essere, viene sostenuto dalla candela che brucia. È molto tempo che ho smesso di farne, ma non mi sono mai dimenticata il punto di vista della candela. Quando siamo centrati, quando siamo nel nostro punto di verità, facciamo come la candela, spargiamo luce intorno, senza sforzo e senza nemmeno volerlo. Essere se stessi passa attraverso il corpo e il nostro modo specifico di abitare il mondo. Per me è realizzare e condividere percorsi unici, individuali e di gruppo, che permettano a chi arriva di trovare nuovi spunti, nuove luci, per sostenere la propria autenticità. Pratichiamo insieme. Sabato 13 maggio, quindi tra qualche giorno, è l'ultimo giorno per iscriversi a due lezioni speciali di yoga e mitologia. Lunedì 15 a Teolo, Padova, dalle 19.30 alle 21.30. Ci sarà in principio le infinite possibilità di ciò che inizia. Per incontrare la tua parte più spontanea, contattami. Martedì 16 a Bologna, sempre 19.30-21.30, il potere del serpente verso nuove energie. Vuoi l'aiuto della parte più saggia di te? Scrivimi. L'unico weekend yoga previsto per la prossima estate sarà al Podere Pireto, sulle colline senesi, dal 18 al 20 giugno. Un percorso fuori dal comune in cui i tarocchi e gli archetipi ti aiuteranno ad abitare il tuo posto al mondo in modo piacevole. Mi sto divertendo tantissimo a preparare i contenuti. Saranno una sorpresa anche per le persone che hanno seguito i seminari online su yoga, posture e tarocchi nei mesi scorsi. Prenota il tuo posto! Nei prossimi mesi ho spazio per tre percorsi individuali per aiutarti a trovare le tue risorse profonde. Scrivimi per fissare la tua prima sessione. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Gabor Maté dal suo When the Body Says No. Anche parlare di legami tra mente e corpo significa intendere che due entità distinte sono in qualche modo reciprocamente connesse. Eppure, nella vita non esiste tale distinzione. Non c'è nessun corpo che non sia mente, nessuna mente che non sia corpo. La parola mente-corpo è stata proposta per comunicare la situazione reale. Un abbraccio luminoso. Laura.